Boh, ecco, sì, allora. Rimanti caldo allora, Non pigliare, non pigliare freddo, che sta facendo freddo. Occhio. Rimaniti caldo, pigliate qualche cosa di forte in modo che ti rimane sempre in caldo. Sì, che con chi stavi parlando prima, Giovanni? Non lo sento io. Come? Ho detto, con chi stavi parlando che non lo sento. Leo Ciro, No, senti, non ce lo senti a Luca. Eia! Ehi, non ti sente nemmeno lui, Lu. Addirittura, a me arriva bene, fortissimo arriva. Quando arrivi bene, lui no, zero, non lo sento. Ma con mio sei Giuseppe? Ah, per quello allora. Ma io già ti sento, va. Già ti sento bene io. E adesso si è uscito tutta a scariche. Infatti, Luca si trova giù e per cui non vi ha sentita, là, uno con l'altro. Vai, Luca. Sì, lo sai, questa frequenza, Giovanni, è un po' strana. Il periodo che bisogna stare attenti adesso. Ma anch'io sono un po' beccato, C'ho un po' di tosse, ma non molto, però ogni tanto qualche colpo mi viene, per cui i colpi d'aria sono, dai. Sono colpi d'aria che noi prendiamo e allora fa quell'effetto. Purtroppo bisogna stare attenti. Però certe volte più attento stai e più fretta di becca. Lo so. Sono sbalzatura soprattutto. Magari adesso ieri c'erano 20 gradi e oggi mi sono 5, 6, 7. È normale, E poi con questo tempo, sai, un po' caldo, un po' freddo, non se ne comprende più. Ne cade il ferro, cade il chiù, per carità. Però, oggi però c'è freddo, Oggi c'è freddo, si sente. Dov'è? Chi? Lo chef. No, ieri eravamo insieme. Però lo si è sentito. Gufo misto di... Ah, gufo. Chi si è matta con matta, Luca? Ah, così, Allora chi si è matta con matta, là? Gatti in casa, capito? E vedo di sedersi che fede di biati. E invece è cuccato, no? Un buco. E allora, aspetta. È bello, guarda, eravamo insieme ieri mattina. Abbiamo fatto la chiacchieratina. Da Bologna alla domo sua. Ah, il bello c'era, il bello della diretta. Attento, il bello. Luca. Dice che stava facendo qualcosa dalla cugina ieri sera e oggi. Così che ce lo sarà ancora dalla cugina, Ho capito. Vai, fai ripetere a Leoncino, Giovanni, io tanto non lo sento. Vabbè, ci sentiamo allora dopo, dai. Tra 10 minuti lui ci sentiamo. Sì, va bene, Giovanni. Ok. Devo riuscire stasera, amici, c'è freddo, rimaniti caldo. Marina voleva andare a vedere la... come si chiama? Le bancarelle di Natale, ma mi sa che... le bancarelle di Natale me le guardo nel letto. Ma c'è freddo, Luce, dice che ti senti male. Anche lì bisogna anche capirlo, no? Non uscire, perché se no ti becca di più e poi magari stai più male, capito? Pazienza, allora, sarà per la prossima di la Marina. Sì, al prossimo Natale, se sono ancora vivo. Noi speriamo sempre arrivarci dopo, come vi piace che faccia, amico. Ok, Lu, dai, ci sentiamo. Giovanni, ci sentiamo dopo, tranquillo, va bene, dai, a dopo, ciao. Attento, gufo. Gufo tristo.